Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Per un pomeriggio che immagino non semplice, per un momento che immagino non semplice per i tifosi dell'Inter. L'Inter ha perso lo scudetto, secondo me, ve lo dico subito. Benitez è appeso al solito filo che diventa sempre più sottile, che continuerà a portarlo in altalena almeno fino al mondiale per club. Moratti dice sono solo due partite, non dipende da quello. Invece dipenderà da quello. Non so se siete d'accordo. 800 24 00 24, numero verde. Oggi ho compagnia splendida, molto noto, di Sport Italia, Francesca Piantanida. Ciao Francesca, grazie. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Vedi, caschi male, questo pomeriggio, il giorno della rabbia degli interisti, io immagino. Adesso vedrai, riparte appunto il discorso Benitez sì, Benitez no, Benitez forse, a chiudere una settimana un po' nera per gli interisti. Mourinho che ne prende. Tifo per Guardiola. Tifi per Guardiola? Sì, guarda avanti. Il traghetto che lo guida? Zenga. Sì. Andrà così, eh? Ma... secondo me sì. Vediamo dopo la pausa natalizia cosa succede. Dopo la pausa natalizia, bisogna vedere come ci si arriva alla pausa natalizia, perché sai benissimo che quella coppa che si gioca ad Abu Dhabi è determinante. Benitez trema e... Il calcio e i datteri. Hai visto anche il mondiale assegnato. Mondiale molto lontano. Io non 2022. Riesco... sì, ma non ci arrivo così lontano. A vedere così lontano. Spero di arrivarci a quel mondiale, ma così lontano non riesco a vedere. Però mi sembra una roba abbastanza normale con i tempi che corrono. Lì del calcio non importa nulla a nessuno. Dello sport non importa nulla a nessuno, però hanno disponibilità illimitate. Quanti stadi vi servono? 12. Ok, domani li avete. E quindi sono state un sacco di polemiche, però lo sport, ogni sport, anche il tuo golf forse va lì. Sì, meta ormai di tutti gli appassionati e meta per tutti i calendari che riguarderanno lo European Tour, cioè un investimento in quell'ambito incredibile. Sì. E tra l'altro abbiamo appena visto i ragazzi a Dubai in realtà. Sì, sai, sempre palline e datteri, no? Certo, palline paesi, certo. Paesi. La nuova frontiera. La nuova frontiera è quella. Visto che sei qui... per farti una sorpresa abbiamo chiamato un tuo amico golfista. Sei contenta? Contentissima. Chi è il rookie of the year? Matteo Malasero. Buon pomeriggio Matteo. Ciao a tutti. Ciao Matteo, come stai? Ciao, bene, grazie. Hai chiuso una stagione incredibile, cioè addirittura rookie of the year, basta, adesso sì. Sei a posto. Adesso posso fermarmi, sì, no. È stata una stagione bellissima che è finita con questo riconoscimento che l'ha resa ancora più speciale, insomma. Devo dire che meglio di così non potevo sperare. Non ho fatto in tempo a sentirti dopo Dubai, ma com'è stata l'esperienza lì? È stata bellissima, un posto molto bello, poi chiaramente la gara è molto particolare, sembra di vivere l'atmosfera un po' di un major, perché comunque sono i primi 60 che si giocano un montepremi altissimo e senza taglio, senza niente, quindi è una gara particolare, però molto è bello poter finire la stagione in quel modo. E quest'anno l'Europa ha stroncato definitivamente gli Stati Uniti, non ce n'è per nessuno, con Keimer, migliore europeo, Westwood, sì. Nuovo numero uno del mondo, basta, l'Europa è fortissima. È stato un grandissimo anno, ovviamente con la Ryder Cup, poi... con Westwood prima al mondo e con la quantità di giocatori europei che hanno giocato alla grande quest'anno, è stato bellissimo, devo dire, il primo anno che veramente il golf europeo si è consacrato. Senti Matteo, questa corona che cosa vuol dire? Questa corona di Rookie of the Year, a me fa venire in mente tante stelle assolute, ad esempio della pallacanestro, del football americano, eccetera. I più grandi sono stati Rookie of the Year. È un gran riconoscimento, come stavo dicendo prima, ovviamente essendo un titolo che puoi ricevere una volta sola è molto difficile vincerlo, e quando parti una stagione senza assolutamente aspettarti niente, neanche di andarci vicino, e poi arrivi a vincerlo, è una grande soddisfazione. Dove arriva Matteo Manassero, cara Francesca? Guarda, il limite è il cielo? Bookmakers dicono che... Tra il 2015 e il 2020 Matteo farà grandissime cose, non solo vincere un major, ma probabilmente potrebbe diventare addirittura uno dei primi del World Ranking. Cos'è l'oroscopo? Eh no, ci sono dati certi. Io scommetto su Matteo. Sì, anch'io. Fuori di qui andiamo. Senza dubbio. Andiamo in ricevitoria. Matteo, come sei messo con gli altri sport? Come sei messo con il tifo? Sono messo bene con il tifo, il calcio, il Milan. Il Milan è l'altra mia passione. E l'Inter invece come la vedi? L'Inter di quest'anno? Pochino, come tutti la vedono in difficoltà, però penso che comunque la stagione che ha fatto l'anno scorso vuol dire qualcosa, quindi sicuramente sarà in grado di riprendersi. È un momento in cui va tutto male, i giocatori si infortunano, i risultati non arrivano, però ovviamente ci sono dei momenti in cui è così, ma sicuramente si riprenderà. Secondo me no, non così tanto almeno. Secondo me dallo scudetto è tagliata fuori. Io da milanista sempre un po' paura, e poi sarebbe ancora peggio. Sei scaramantico, però insomma se c'è lo sciopero, c'è una serie di concomitanze, il Milan vince, continua ad andare bene, eccetera, potrebbe ritrovarsi nell'anno nuovo a 16 punti dal Milan. Sono stati fatti anche questi conti, 16 punti. 16 punti è qualcosa di... No, 16 punti è tantissimo. Io ovviamente questi conti non li ho fatti, però vedo che il Milan sta giocando bene e vedo che l'Inter non sta per niente giocando bene, quindi questo è il... Però il campionato, essendo così tanto lungo e l'Inter avendo dimostrato quello che può fare l'anno scorso, penso che sia pericolosa fino all'ultimo. Però l'Inter investe su giovani come te. L'Inter? Sì. Più del Milan. È più del Milan, sì. Potrebbe però... essere una prospettiva... Sì. Beh, sicuramente è quello che sta facendo fare bene a quella squadra, all'Inter adesso, sicuramente. Però no, non riusciamo a far cambiare fede a Matteo. Non riusciamo a farlo diventare interista, ma secondo me ha ragione. A Crano gli ho persino chiesto di Ibrahimovic, era entusiasta, io pensavo. Beh, ha ragione, cioè Ibrahimovic ti cambia la vita, lo sta dimostrando questo campionato. Ibrahimovic cambia la vita, sì. A vedere una partita di calcio la cambia completamente, cambia il risultato, cambia la vita Ibrahimovic. Certo, in Italia è così. E poi devo dire che è uno dei pochi giocatori che mi fanno ancora venire voglia di andare allo stadio. Non ce ne sono tantissimi in questo momento. No, è uno che esalta il pubblico, almeno a me, milanista. Grazie Matteo, in bocca al lupo. Grazie mille. A presto. Ciao, grazie. Matteo Manassero diventerà una superstar. Sì, diventerà una superstar. Poi è estremamente comunicativo, non ha problemi a parlare con i giornalisti, è sempre a suo agio, è avanti, è un ragazzo con grande talento e andrà veramente lontano. È qualcosa lontano. Che non si insegna, la capacità di... Grande classe La anche. Capacità di comunicare. Sì. Allora, adesso ci fermiamo un attimo per il traffico e subito dopo cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Primo da Bolzano, si chiama Carlo, 800 24 00 24, numero verde, anche i messaggi 349 238 6666. C'è chi scrive, è da dopo il derby che mi sembra di vedere in Benitez un uomo solo, un dead coach walking. Lei che ne pensa? Che ne penso, che sono abbastanza allineato. Non capisco le pressioni su Benitez per l'Intercontinentale. All'Inter hanno sempre commentato quelle del Milan come amichevoli di lusso. Sì, hanno commentato quelle del Milan come amichevoli di lusso, adesso commentano questa come una tappa importantissima per questa squadra e per il suo futuro. Traffico. Allora Carlo, come sta? Io sto bene, grazie. Buonasera. Buonasera a lei, dica. Allora, sono tifoso dell'Inter, sì. Chiaramente non sono entusiasta, però alcune considerazioni. La prima, oltre a non avere qualche giocatore importante, manca Auriali. Sì. E mi sembra che questo faccia sicuramente la differenza. Sì. La seconda, da alcuni anni, direi da sempre, mediaticamente non siamo particolarmente protetti. Il Milan ha dietro di sé le reti Mediaset, la Juventus ha un giornale, Roma e Lazio anche, l'Inter da sempre è una società che dal punto di vista mediatico conta solamente su Morata. Roma e Lazio in che senso? Beh, Roma e Lazio Lazio hanno due quotidiani a loro disposizione, no? Da tutto il punto di vista mediatico. Sì, grosso modo locali. Corriere dello Sport. Corriere dello Sport, l'Inter, insomma, è il giornale di riferimento dell'Inter, la Gazzetta, insomma, da questo punto di vista. Io credo che sia diverso. Poi, se guardiamo i nomi che c'erano ieri in campo, qualche differenza rispetto alla finale di Madrid c'è. Prendiamo i primi cinque nomi, poi sicuramente Benitez qualche errore lo ha commesso. Sì. Però personalmente Benitez mi sembra un allenatore che possa stare all'Inter. Io mi auguro che la società lo protegga un po' di più. Sì, questa la vedo un po' difficile, perché... ho capito, può darsi che sia difficile, però mi auguro che lo proteggano, perché io l'unica colpa che posso fare Benitez è quella a volte di aver fornito ai giocatori degli alibi. Ieri le sue dichiarazioni, se sono vere, perché io ho visto la partita ma non ho visto poi le dirette delle interviste, cioè dichiarare che la testa non era sulla partita è un errore. Sì. Testa deve sempre stare ma sulla poi, partita che c'è, e poi per il mondiale ci sono ancora due settimane, quindi insomma. No, ma poi se la testa non è sulla partita in questo momento vuol dire che c'è qualcosa che non va. Credo che sia andato un po' in confusione da questo punto di vista Benitez, perché ha ragione lei, queste dichiarazioni sono fuori luogo. Se l'Inter in questo momento non ha la testa sulla partita, la colpa non può che essere di chi la guida. Cosa ne dici, Francesca? Penso che il paragone con Mourinho spiazzi tutti, di conseguenza. Lo abbia un po' schiacciato. Sì, l'eredità di Mourinho pesa sicuramente. È una squadra che deve ritrovare il proprio equilibrio, l'ha detto anche in conferenza stampa nel post partita Benitez stesso. Abbiamo un paio di dichiarazioni di Benitez, la prima sulla, così qualche ascoltatore le può sentire o risentire, sulla Lazio, Benitez. Noi sappiamo che non era una partita facile all'inizio, penso che il primo tempo la squadra ha lavorato bene, ma mancava un po' qualcosa in attacco. Secondo tempo penso che tutto è andato bene alla Lazio, contrario che a noi, ma hanno fatto due gol, noi dobbiamo attaccare, l'abbiamo fatto, per me la reazione della squadra alla fine è stato bene, e la differenza può essere che Córdoba ha un'opportunità e noi facciamo gol, e per loro tutto è andato bene, no? Sì, Benitez dice anche che non è finita, io non ci credo, sentiamolo. Io sono sicuro che la squadra, con tutti i giocatori infortunati che saranno disponibili dopo, sarà molto meglio. Vediamo che la differenza è di là, ma questo è calcio, si deve giocare le partite, ma sono sicuro che dopo la squadra può farlo bene e può vincere le partite seguite. Questo era Rafa Benitez, ma tu hai ragione, secondo me il peccato originale di Benitez è stato un peccato di presunzione, perché è arrivato proprio sentendo questa pressione del dopo Mourinho, ha detto: prima c'era Mourinho, adesso ci sono io, vedrete un'Inter diversa, più attraente, più bella, col possesso palla, eccetera eccetera. È stata questa fretta dannata che Benitez aveva di mettere la sua firma su questa squadra. Quando non c'erano le condizioni, poi sono stati gli infortunati. Però, vedi, non è neanche una questione di chi va in campo, ci sono tanti infortunati. È una squadra che non ha un'idea, questa, secondo me. Cosa dici? Devono essere motivati. Mourinho li motivava, Benitez no. Non abbastanza. No. Mourinho... E non sono uniti. No, no. Antonio, provincia di Pistoia, buongiorno. Buonasera, ben trovato e complimenti. Grazie. Un po' qualche parola l'avete già detta. Complimenti anche a Carlo, perché ha centrato per me il problema. Sì. Il problema di Oriali. Oriali era assolutamente efficace nei rapporti con i giocatori, e non solo, era una bandiera per tutti. E non si capisce perché. Bisogna sempre stravolgere e sconvolgere uno staff. Al tempo stesso Benitez è inadeguato, a mio avviso, in quanto già dalle parole si capisce l'inadeguatezza della persona. Vede sempre il bicchiere mezzo pieno, e per me è sbagliato. A volte bisogna anche riconoscere i propri limiti e i limiti anche di un gruppo. Non di, solo, ma di circostanza. Benitez dice quello che deve dire. Lo so, ma non va bene per chi lo segue e anche per chi ci capisce qualcosa. E al tempo stesso. Però è fatto così. E sarà un suo limite, no? Si sta patendo. Io sono interista. Si sta patendo. Ma poi non si può vivere sempre sul passato. Assolutamente, cioè i tifosi del Barcellona sono 3 anni che godono come matti, eppure hanno vinto tutto. Perché? Perché hanno costruito su un gruppo, non hanno smantellato e assolutamente cambiato per ricevere i favori della cronaca. Invece Benitez ha fatto questo. E poi, ora chiedo scusa ancora, continuo, l'inadeguatezza anche del preparatore atletico, non penso sia una combinazione tutti questi infortuni. C'è qualcosa che non va. Sì, secondo me parzialmente può essere così. Poi, insomma, ne parlavo anche ieri in tutt'altro contesto con Matteo Bonicioli, allenatore della Lottomatica Roma di basket, che ha detto una cosa molto condivisibile, che mi ha fatto venire in mente un'altra frase che disse un giorno Carlo Ancelotti, cioè lo sportivo professionista non è una persona sana. E Bonicioli ieri diceva lo sport a questo livello fa male, qualcosa che è molto estenuante, molto logorante dal punto di vista fisico, per cui potremmo aprire un discorso molto lungo che forse non è il caso di fare. Il caso invece è salutare Marco Ansaldo, mio amico inviato della Stampa. Ciao Marco. Ciao, ciao. Parlavo del peccato di del peccato originale di Benitez, che ha voluto subito griffare questa Inter quando non ce n'erano le condizioni, cosa che nemmeno Mourinho aveva fatto in maniera molto intelligente. Ma sai, però c'è una piccola differenza secondo me tra Benitez e Mourinho. Mourinho arrivò ad allenare una squadra che non era spremuta come questa. Mourinho comunque si fece comprare dei giocatori che in qualche modo lui voleva, cosa che invece quest'anno Benitez non ha avuto, nel senso che Benitez ha dovuto fare con l'acqua che aveva precedentemente. Ma quando ha accettato, secondo te non doveva chiedere qualcosa? Lo so, però sai, quando tu parti per un'avventura del genere con la squadra campione d'Europa, anche se in quel momento probabilmente ancora non sapeva che sarebbe diventata campione d'Europa, però insomma ti viene l'Inter e tu pensi che con un presidente che negli anni ha comprato quello che ha comprato Moratti, poi tu arrivi e qualcosa prende anche a te, o comunque ti sta ad ascoltare, e invece non gli ha preso nessuno. Cioè il primo anno che Moratti non ha preso un giocatore che sia un giocatore, e questo va messo in conto. L'altra cosa che vorrei capire è questa: secondo me Benitez non è né un grande stratega né un allenatore straordinario, cioè fuori dalla norma, è un ottimo professionista, ma non è, voglio dire, uno che inventa delle cose straordinarie. La sua grandissima, enorme forza è sempre stata quella che ha dimostrato nel Liverpool di saper andare a trovare, anche attraverso i suoi informatori, dei giocatori giovani che andava a scoprire prima di tutti gli altri, che poi portava alla ribalta. Quindi se io, presidente, scelgo di prendere Benitez, lo prendo per quella ragione lì soprattutto, e invece non gli è stato fatto nulla. Cioè hanno preso Benitez come se fosse un grande stratega, sì, e gli hanno affidato una squadra senza né sfruttare le sue capacità di talent scout né le sue capacità di saper vedere e conoscere bene il mercato mondiale e quindi prendere dei giocatori interessanti per l'Inter. E non ho capito a questo punto che cosa serve. La cosa che mi lascia perplesso di Benitez in questo momento è questa: io ieri ho visto una squadra senza capo né coda, e non è la prima volta. Allora, lui ha tutte le scusanti dovute al fatto che ha dei giocatori, ha una marea di infortunati. Però io dico, tu puoi anche avere le seconde o anche le terze linee, ma queste devono esprimere un tipo di gioco. Non lo faranno bene come le prime linee, ma un tipo di gioco deve esistere. Esatto. Non ha un gioco, non capisci cosa fa. Sì, è quello, Francesco, quanto stavamo dicendo noi ora, no? Cioè, discutiamo sulla qualità degli interpreti, però la recita deve avere un filo conduttore, cosa che non accade. Sì, anche se in parte io do la colpa anche al caso, nel senso che questa lunga lista di infortunati è anche un po' un caso che naturalmente si ripercuote sulla situazione già critica dell'Inter. Però effettivamente perdere così tanti giocatori nello stesso momento in cui Benitez deve cercare di insomma far risorgere una squadra che ha comunque delle pedine importanti come Milito e Sneijder, che sono esauriti dal mondiale, non so, io non mi scaglierei così tanto su Benitez. No, ma torno a dire, Benitez secondo me ha moltissime attenuanti. La più grande attenuante è quella di essere capitato forse nella società sbagliata nel momento sbagliato. Difatti quelli furbi come Capello di solito non vanno mai nelle squadre che vanno bene, vanno sempre a prendere una squadra che sta andando male e così l'anno dopo fanno una bella figura. Quindi Mourinho, Benitez ha sicuramente questa attenuante enorme. Quello che mi lascia perplesso è che dopo 4-5 mesi l'Inter, con le prime linee o con le seconde o con le terze linee, non esprime un gioco chiaro, non si riesce a capire quello che vogliono fare. È tutto lì. Tu puoi avere Biabiani come interprete o puoi avere Eto'o. Sicuro. Però in qualche modo Biabiani deve essere uno che sa quello che deve fare. Esatto. È uno che ha una qualità che è quella di giocare da ala e ieri ha fatto uno spunto da ala e tutte le altre volte no. Sì, verissimo. Quindi, verissimo. Senti Marco, un'ultima considerazione. A me sembra che questa squadra sia anche alla ricerca di un leader emotivo. Mi spiego. Mourinho era il leader di questo gruppo l'anno scorso. Prima di Mourinho c'era Ibrahimovic, no, nell'Inter di Mancini. In quest'Inter un leader emotivo non c'è, a meno che non si voglia far passare per leader emotivo, cosa che è solo in maniera molto parziale, ad esempio Materazzi o ad esempio Capitan Zanetti. Però il condottiero manca. Sì, sicuramente. Secondo me i leader per personalità potrebbero essere Cambiasso e Stankovic. Però sono leader emotivi da quel punto di vista lì, ma non sono leader per la gente, insomma. Esatto. Possono essere all'interno di uno spogliatoio, però secondo me non sono personaggi, ecco. Pesa questo secondo te? È un po' come? Pesa questo secondo te nel momento dell'Inter? Ma pesa un po' tutto nel momento dell'Inter. Comunque vorrei ricordare anche una cosa, il Barcellona l'anno scorso, che pure è una squadra che ha un potenziale tre volte superiore a quella dell'Inter attuale, cioè l'Inter degli infortunati. Se tu ricordi bene, poi l'anno scorso il Barcellona ha avuto delle difficoltà, tanto è vero che nella Champions è uscita. Sì. Il Barcellona di quest'anno è un'altra cosa, ma il Barcellona dell'anno scorso era nelle condizioni dell'Inter di quest'anno. Arrivava dal triplete, arrivava da una stagione straordinaria, momento di rilassatezza, e a questi livelli non puoi più permettertelo. Sì. L'Inter, secondo me, comunque nessuno continua a considerare quello che ha fatto l'anno scorso. Cioè, questi sono stati spremuti fisicamente e psicologicamente come dei limoni, hanno giocato quasi sempre gli stessi. Questi, cioè, tu vedi Sneijder adesso, lo vedi l'anno scorso, è un altro giocatore. Ora, io non credo che sia Benitez che gli ha detto adesso quest'anno gioca male. No. Però Sneijder non ce la fa più. Sì, no, evidente. Poi l'anno scorso vedevi, giocava anche infortunato. Gioca o non gioca, si decide un minuto prima, questo va in campo, fa una partita da 8 con 2 gol. Quest'anno niente. Io non so cosa abbia Stankovic realmente, perché oggi non ho saputo. Non... Guarda, te lo dico io, risentimento muscolare, non gioca a Brema, però si tutto a posto, si aggrega al gruppo, va ad Abu Dhabi e gioca il mondialito. Esatto. Quindi ieri Stankovic in una situazione del genere ha in qualche modo deciso, anche intelligentemente per carità, di rinunciare alla partita con la Lazio per andare, per preservarsi, per non peggiorare, e preservarsi per Abu Dhabi. E quindi vedi che la mentalità è completamente diversa. L'anno scorso Sneijder, appunto, prima delle partite di Coppa sembrava sempre che non giocasse e poi lo vedevi in campo. È tutto l'insieme che fa. Secondo me manca anche un po' a Benitez l'appoggio della società, sì. Nel senso che Moratti gli dà questa fiducia, ma si capisce che non è esattamente l'allenatore. Mette che sempre la condizione, c'è una lui voleva, mette la clausola, fiducia, cioè, sì, però sì, l'ho preso, mi va bene, però ecco, cioè non c'è mai un'idea di una società che gli stia veramente dietro, che abbia capito le sue difficoltà. E quindi un po' la società, un po' lui, che evidentemente non è poi questo stratega gigantesco che pensavamo, un po' le condizioni della squadra globalmente, tombola. Si trova a fare la tombola. Grazie Marco, okay. Buon lavoro. Ciao, anche grazie, un abbraccio Marco Ansaldo. Francesca, tu stai qui naturalmente, adesso ci fermiamo un attimo, poi ho l'impressione ci siano un po' di ascoltatori che vogliono intervenire. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Vittorio da Milano, Giuseppe, Sesto San Giovanni, Marcello da Lecco, Stefano da Ravenna, questo tanto per cominciare, cara Francesca Piantanida. I nostri ascoltatori, 800 24 00 24. Peccato che alle 18 dobbiamo chiudere la seduta, se no si andava avanti fino al Milan, che gioca alle 20:45. Vittorio, buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo farle un appunto, perché due. Ho l'impressione che parlate un po' per slogan, perché allora io le voglio chiedere a caso da lei, anche l'esperto che parlava prima, non ho capito chi era. Marco Ansaldo, inviato della Stampa. Ecco, non so chi sia, invece la Piantanida, ecco. Francesca Piantanida è una nota giornalista televisiva, Sport Italia, si vede che non... Benissimo, io l'ascolto sempre lei, però vedo che ho l'impressione che lei sia più esperto di basket, perché se prendiamo qualsiasi squadra, e noi che lei attacca cari Benitez a tutto spiano. Io non attacco nessuno. Gli tolga, sì, l'ha fatto tutta la sera. Ah, l'ha fatto Moratti più di me, mi pare, o no? Ma no, allora, no. Comunque, tolga sei, cinque, sei titolari più forti a tutte le squadre. Prenda, sì, il Milan, prenda la Lazio, prenda la Roma. Poi vediamo che progetto di gioco hanno. Dice, ma non c'hanno gioco. Ma provi a lei a togliere il portiere più forte del mondo, il terziere più forte del mondo. Tolga il Milito, tolga Eto'o, Stankovic. Gli tolga Snyder che litiga col pallone. Sì. Non so, se uno mette in campo la primavera, poi è chiaro che dopodiché ci... Se ha delle colpe Benitez, potete dargli delle colpe in questo senso. Se lui è responsabile lui della preparazione, con tutti, sì, questi infortuni, potete dargli delle colpe. Sul resto, che non abbia gioco e che non provi, l'altra sera Mourinho ha fatto una figura barbina col suo grande Real, ha preso cinque pappine. Voglio dire, vedi che gli allenatori, voglio dire, non si può dare tutta la colpa all'allenatore. No, ma non si dà tutta la colpa all'allenatore, Vittorio, sì, abbia pazienza. A prescindere dal fatto che io non do la colpa a nessuno, mi limito a valutare le cose che sono lì. Mi sembra che sia stato Moratti il primo, ed è molto, molto più importante e pesante del mio giudizio, che non conta nulla. Però se Moratti per primo lo mette in discussione, come lo ha messo in discussione e lo rimetterà in discussione, allora quello sì ha un peso. Vuol dire che è Moratti il primo a non essere convinto della sua scelta. Poi, ne ha fatte nella sua vita, voglio dire, però non è il Vangelo Moratti, non è mica detto che Moratti abbia ragione. No, perché no, ma non sto dicendo che ha ragione, però sto dicendo che condiziona assai più di quanto possiamo dire noi da questi microfoni. Quindi è ben più pesante e importante il comportamento e l'atteggiamento di Moratti nei confronti del suo allenatore. Mi sembra che questa fiducia sia grosso modo di facciata. Io non do tutte le colpe a Benitez, però gliene do una, e la ripeto, è quella di prima, di aver voluto comunque impostare subito una squadra di rottura rispetto al passato, cosa che nemmeno Mourinho aveva fatto, perché Mourinho ha vinto uno scudetto esattamente con l'Inter di Mancini, perché la prima Inter di Mourinho, di Mourinhesco, non aveva nulla. L'Inter di Mourinho l'abbiamo vista l'anno scorso ed era onestamente una grande squadra. Che ne dici, Francesca? Sono perfettamente d'accordo con te, non voglio assolutamente colpevolizzare Benitez, perché non è così, ripeto, oltretutto l'eredità di Mourinho pesa tantissimo, di conseguenza anche il caso, ripeto, legato a questa serie di infortuni mette l'Inter in una condizione critica, e Moratti chiaramente cerca la rottura, o comunque cerca una soluzione alternativa, che poi possa essere un traghettatore come Zenga o direttamente Guardiola, chi può dirlo, staremo a vedere dopo Natale. E poi anche vero, cara Francesca, che se l'anno scorso si faceva male Milito, cosa che non è accaduta, perché lì Mourinho comunque ha avuto una gran fortuna, perché comunque i giocatori chiave hanno giocato tutte le partite. Se l'anno scorso si faceva male Milito, ipotesi, entrava Balotelli. Quest'anno si fa male Milito, entra chi? Boh. Chi entra? Biaviani, Coutinho, questi giocatori che magari diventeranno giocatori, chiaramente oggi non sono da quel livello, e da questo punto di vista, ripeto, mi sorprende il fatto che Benitez non abbia quantomeno posto delle condizioni prima di arrivare a questa squadra, perché questa squadra fosse spremuta lo sapeva anche prima di accettare l'incarico. Giuseppe, Sesto San Giovanni. Buonasera, dottor Genta. Salve. Allora, intanto rispondo all'ascoltatore di prima che Moratti è dalla nona giornata che sta bersagliando Benitez, quindi non da ieri. Quindi conterà qualcosa di più rispetto a quanto posso dire io o può dire Francesco Biancaneda. Guardate, no? Le interviste di Moratti del lunedì, dalla nona giornata in avanti qualcuno deve fare un passo indietro, degli infortuni, più volte ha detto che la cosa non gli andava bene, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Quindi la cosa non è nuova. E poi la squadra è spremuta, e però Moratti dice non voglio che non diventi un alibi, esatto. Possiamo andare avanti, vincono con il Twente e sì, fiducia in tutti, però adesso bisogna cominciare a fare i punti in campionato, eccetera. Infatti, esatto. Tra Moratti e Benitez c'è fase di tregua, non è pace, tregua. No, non c'è mai stato feeling, che è un po' diverso, e detto anche da calciatore quale sono io, i primi responsabili dei risultati nel bene e nel male sono i calciatori, poi al di là di tutto. Sì. Detto questo, il discorso che faceva su Benitez, e sono anche i primi a tirarsi indietro quando sentono che la fiducia non c'è, no? Quando le cose traballano sono i primi che scappano, quello è vero. Riguardo al Benitez che ha accettato le condizioni, Benitez ha accettato in toto tutte le condizioni di Moratti. Mm-hmm. Stessa squadra, i giovani, staff ridotto, contratto 1+1 e non 2 anni, e gli obiettivi stagionali, le coppe del 2010 e qualificazioni in Champions. Li ha accettati tutti, lo ha portato Branca e non Moratti, cosa da non sottovalutare. E ultima cosa, vi lascio con questo spunto di riflessione. Mancini e Mourinho sono arrivati all'Inter e hanno chiesto i giocatori i cui contratti più o meno corrispondevano ai giocatori che avevano chiesto. Se si compra un Mascherano o un Kite, almeno un triennale glielo devi fare, almeno. Il contratto di Benitez è di 1+1. Che cosa vuol dire? Che la politica della società è già chiara da luglio. Benitez è un traghettatore che rimarrà quest'anno e il più uno è o il rinnovo per l'anno prossimo o la clausola di buona uscita qualora Moratti lo mandasse via a giugno. È da luglio e lì è chiara, basta vederla. Moratti ha deciso che quest'anno vuole sistemare il bilancio in previsione dell'anno prossimo. La squadra era forte così, se l'è tenuta così. A gennaio forse qualche ritocchino, ma roba di seconda fascia e basta. Questa è la politica di quest'anno dell'Inter, è inutile andare a cercare odiare contro Moratti, non prendi i giocatori, non compra, non spende. E lì basta leggerla, basta volerla leggere. Mica male, perfetta. Mica male, Giuseppe Giovanni, Francesca, da giocatore, da calciatore. Sì, sì, da 13 anni. E tra l'altro le dico una cosa, e concludo: 13 anni che a livello agonistico ho fatto preparazioni di diverso tipo, da quelle a fondo, da quelle veloci, da quelle più sulla velocità, eccetera. E a volte le differenze le si sente proprio. Dopodiché è chiaro che se uno imposta la preparazione e poi dopo comincia a vedere che gli infortuni sono sempre gli stessi, fermati un secondo, guarda cosa c'è che non sta andando. 8 infortuni su 10 sono al bicipite femorale, se non ho capito male. Sì, e Stankovic recidivo, perché ieri sera alla fine l'infortunio non è così grave, però è sempre quella coscia sinistra che continua a tormentarlo da diverso tempo e non si capisce ancora bene che cosa sia di preciso. Io la ringrazio, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo. Sono ancora un paio di ascoltatori, Francesca, poi parliamo d'altro per chiudere. Tanto poi domani, io lo so già, torneranno tutti dalle 16.30 alle 19, saremo qui a rifare grosso modo questi discorsi. Marcello Lecco, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Premesso che non sono preparato come l'ascoltatore di prima, sì. Giuseppe. Migliore in campo, peraltro. Io volevo fare solo la mia riflessione sulla situazione dell'Inter. Io penso che probabilmente l'80% delle responsabilità siano da attribuire alla società e quindi a Moratti. Secondo me doveva essere in grado una società di quello spessore di mantenere Mourinho fino al termine del ciclo e quindi anche quest'anno per disputare il mondiale per club. Ho capito, però se quello ha alzato la Coppa dei Campioni, è andato via con la macchina del Real Madrid. Alternativa io avrei pensato più a un allenatore emergente, stile, che ne so, Allegri, piuttosto che l'ex dell'Inter che adesso allena la Fiorentina, mi sfugge il nome. Mihajlovic. Esatto, perché era naturale che Benitez potesse portare le sue idee, quindi quel tentativo che dice lei di Marcello, non lo so, il discorso è che adesso insomma è abbastanza facile e anche sufficientemente stucchevole, no Francesca, dire forse era meglio questo quell'altro. Benitez, certo, è che Mourinho se ne sarebbe andato comunque, di conseguenza non è che o lo incatenavi alla panchina di San Siro, difficile con le guardie esatto, con dei bodyguard proprio. Sì. Stefano Ravenna, buonasera. Sì, buonasera a tutti e due. Dica. Niente, io volevo, in parte l'argomento me l'ha già un po' portato via il signore molto preparato, se non sbaglio, di Sesto San Giovanni. Sì, sì. E volevo solo ribadire che ho l'impressione che al di là dell'aspetto calcistico incida molto anche l'aspetto economico sulla situazione dell'Inter attuale, perché obiettivamente, al di là che la squadra forse andava anche cambiata a livello tecnico, forse Maicon e Milito andavano ceduti, però adesso io su questo dopo ovviamente è il direttore sportivo assieme al presidente che decidono queste cose, però proprio l'aspetto economico, cominciare il fair play finanziario e soprattutto leggendo anche alcuni articoli del signor Gianni Dragoni e dell'esperto che è con Guerrancini il mercoledì, penso che l'Inter e anche il Milan in particolare abbiano grossi problemi a livello finanziario. Però ce li hanno, sono in buona compagnia, perché sì, certo. Barcellona, però, Real Madrid, esatto, Manchester United, quindi, se vuole, Bologna. Bologna. un riferimento a caso. No, vale tutto. Io avrei smontato questa squadra dopo, l'ho detto molte volte, dopo la vittoria di va via il leader, che era Mourinho, vanno via anche gli altri, si riparte a zero. Sarebbe stato molto complicato, forse anche impopolare, però forse era la mossa giusta, che dici? Sono d'accordo con te. Via anche Milito, che batte cassa ancora in campo al Bernabeu con la coppa ancora sul tavolino. Voglio farti sentire una cosa. At 4-6-8 from St. Vincent St. Mary High School, number 6, LeBron James. Number 6, LeBron James. Boo! Ti piace il basket? Abbastanza, poi col coach in redazione, esatto, non possiamo non amarlo. C'è questa storia, LeBron James, 7 anni a Cleveland, il prescelto, l'uomo che è simbolo non solo di quella squadra ma di quella città, che torna da traditore e viene accolto così. L'America si è un po' spaccata, c'è chi dice hanno esagerato, c'è chi dice sono stati anche troppo morbidi. Cosa ne pensi di questo? Alto tradimento, in America così. Ma hanno ragione, secondo me hanno ragione. Assolutamente. Cioè, soprattutto ragione per la mentalità che hanno gli americani. Era un simbolo di quella città, di quella squadra che non ha mai vinto nulla, simbolo della resurrezione, della rinascita, di mille altre cose. Cosa ti aspetti? Ma lì lo applaudono? Ma no. Assolutamente no. Simone Sandri, dalla mia città preferita, New York City. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Saresti andato anche tu a fare bu a LeBron James? Io sarei, se non avessi avuto l'influenza sarei dovuto andare, non potevo fare bu perché ero in tribuna stampa ovviamente. Ma l'avresti fatto? Sicuramente, senza dubbio, ma la anch'io. Cosa più bella secondo me è stata l'accoglienza che hanno riservato a Ilgauskas, che è stato introdotto appena dopo LeBron James. Applausi a scena aperta per Ilgauskas, e certo, più clamorosi per LeBron James. Secondo me ci sono modi e modi di arrivare a un divorzio, come in tutte le relazioni. Sì. LeBron ha scelto quello in assoluto più impopolare e in assoluto più egoista, e secondo me è per questo che Cleveland non riesce a perdonargli il fatto di essere andato a Miami, non tanto per questa scelta ma assolutamente per il modo in cui l'ha fatto, e secondo me è difficile dargli torto. Sì, la più bella l'ha detta Mo Williams, che non se l'è filato di pezza, no? Gli è passato vicino, ha provato a stringere la mano, questa ha tirato dritto e poi ha dichiarato: cara Francesca, è come se la tua ex fidanzata venisse al tuo matrimonio. Non è male, eh? Pesante. Sì, però corretta, voglio dire. Correttissima. Secondo me è ancora peggio, è essere invitati al matrimonio della propria ex fidanzata dopo essere stati scaricati la propria ex fidanzata. È ancora proprio peggio. Tu vai e vedi lei felice nel momento più bello della sua vita, e tu magari che sei ancora singolo oppure non riesci a trovare un'altra fidanzata. E questo secondo me rappresenta nella maniera migliore quello che sentono i tifosi di Cleveland. Devo dire però che mi ha deluso molto invece l'atteggiamento dei giocatori. Ma scherzi, perché... ma come minimo, sai, noi siamo italiani e ci viene facile pensarla così. In un ambiente del genere, in una condizione del genere, come minimo prendi il decimo della panchina e dici: senti, spendi un po' 3 falli su quello lì, sui primi 3 tiri, poi vediamo. Sono d'accordo, anche senza arrivare nessuno vuole fare male a nessuno, però un minimo di intensità, un po' di fuoco negli occhi, bravo. Cose di questo tipo. Io se avessi giocato una partita così mi sarei buttato nel fuoco, in un ambiente straordinario, sembra di essere al Colosseo con i leoni e tu giochi contro il giocatore che ti ha tradito, che ha dato un segnale alla tua carriera, un giocatore come Antoine Jamison che è andato a Cleveland per vincere, si ritrova di colpo, dopo che è stato convinto da LeBron James, si ritrova di colpo in una squadra disastrosa che rimarrà disastrosa per anni. Sicuramente non avrei giocato con un'altra intensità. Mi ha ricordato molto l'ultima partita di Michael Jordan con i Wizards, dove c'era un'atmosfera straordinaria dappertutto, eppure in campo i giocatori non si sono accorti di questo evento straordinario. È abbastanza triste vedere cose di questo genere, secondo me. Hai ragione, Simone. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Simone Sandri. Francesca, facciamo appena in tempo a dire che per la gioia di Simone Sandri il Novara ha vinto 3-0 con il Crotone, guida capolista classifica. Ancora ma lanciatissimo, Porcari e doppietta 18ª di giornata al Novara, veramente una conferma. Io un po' il Novara lo tifo, ti dico la verità, anche se il tifo è una gran brutta malattia. Senti, grazie per essere stata con noi, torna a trovarci. Grazie a te, a presto. Io ti aspetto. Grazie a Francesca Piantanita, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Ci sentiamo domani, come sapete, dalle 4:30 alle 7 per parlare di calcio, poi 8:30, 9 il basket, come sempre. Buona serata.